24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 18 minuti e 22 secondi inizia questa terza parte di 24 Mattino di martedì 17 marzo. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno a te Simone, buongiorno a chi ci ascolta, a quelli che non rinunciano a una corsetta di mattina perché poi magari tutto il giorno saranno tappati in casa, e soprattutto a quelli che stanno lavorando, per tutti noi. Che ci possono raggiungere tutti quanti al 349-238-6666, via sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, l'800-24-00-24 se volete intervenire in diretta, fate sentire anche la vostra voce, diteci un po' come la vedete, anche come state attraversando questa fase. Maria, prima di andare al nostro primo ospite, che è già in linea con noi, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna. Visto che ci ascolta anche Bonaccini. Cara Maria, ma è su quello che ti volevo portare. Buongiorno Bonaccini, eccoci. C'è un pizzico di, posso dire, un pizzico di orgoglio patriottico, perché sapete perché? Perché ieri sera mi sono sentita in diretta il discorso di Macron e ho scoperto che hanno praticamente copiato punto per punto quello che noi abbiamo fatto 10 giorni fa, e anche le misure che il governo italiano ha preso all'inizio, le misure economiche, le hanno riproposte pari pari. Un'ideuzza però nuova ce l'hanno avuta e la voglio condividere, perché magari appunto la può fare sua anche il presidente della Regione Emilia-Romagna. Macron ha disposto che tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, portantini, chiunque, e tutti coloro che in generale lavorano per consentire agli altri di sentirsi sicuri, possano usufruire del taxi gratuito, paga lo Stato. E quindi, mentre ha ribadito 5 volte siamo in guerra, cambiando totalmente l'atteggiamento che aveva avuto solo pochi giorni fa quando era andato a teatro con la moglie, ebbene, questa cosa del taxi gratuito, per esempio i medici che finiscono il turno, le infermiere che finiscono il turno tardi, mi sembra un'idea che potremmo copiare. Lei che ne dice, Bonaccini? Bonaccini, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Taxi buongiorno gratis. A voi, sì, sì, può essere un'ottima idea, ci mancherebbe anche un ulteriore aiuto. Adesso mi pare, lei ha sottolineato una cosa molto vera, ogni paese europeo via via vedrà che prenderà, se non le stesse misure, misure molto simili. Io credo che anche in Gran Bretagna succederà qualcosa di molto diverso da come quelle parole, a mio parere, irresponsabili di Boris Johnson di qualche giorno fa intendevano, perché pare di aver letto che già nel sistema scolastico e in altri si stanno sostanzialmente auto-organizzando a sospendere diverse attività. Certo. Lei ha ragione, vedremo il Guardian in prima pagina dice proprio questo. Il primo ministro dice ai britannici: state a casa per fermare il coronavirus. Anche qui una retromarcia clamorosa. Niente. Rispetto a qualche giorno fa. Niente pub per 3 mesi. Ascolti Bonaccini, la voglio portare subito su quello che è un po' il tema di dibattito in queste ore, e che è quello del numero di tamponi da fare. Riportato in luce dal presidente della Regione Veneto Zaia e poi ieri dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che improvvisamente ha detto no, guardate, dovete farne il più possibile. Questa mattina abbiamo avuto ospite il suo collega Ceriscioli della Regione Marche, il quale dice: ci stiamo attrezzando e anche noi partiremo. Voi vi state muovendo su questo fronte oppure no? Guardi, noi ne stiamo facendo. Peraltro ciò che era l'indicazione era che un conto era fare i tamponi da dove nasceva un focolaio. Ad esempio a Boe Uganeo, una popolazione di poco più di 3.000 abitanti, Luca Zaia prese la decisione d'accordo con le autorità sanitarie di fare i tamponi su tutta la popolazione, e poi rifarli anche dopo, isolandola, quella che era la prima, vi ricordate, no? Le prime 2 zone rosse, una era quella di Codogno e comune di Mitrofi, l'altra era quella del piccolo comune di Boe Uganeo. E il 96-97% dei casi di trasmissione credo che le autorità sanitarie indichino arriva da pazienti, da persone che sono sintomatiche e non asintomatiche. Dopodiché l'indicazione era quella che in una prima fase serviva fare il tampone a tappeto, ma una volta fatto il contagio bisognava intervenire in maniera in parte differente persino. Dopodiché noi solitamente, guarda, io non sono né un medico né uno scienziato, noi siamo abituati ad attenerci alle indicazioni che arrivano dalla comunità medica e scientifica. Lei ricorderà, ne parlammo anche con voi, io fui il primo presidente di regione in Italia che introdusse anni fa la vaccinazione obbligatoria nella parte di nostra competenza di asili nido. Lo feci perché ci confortò il giudizio e le proposte della comunità medica e scientifica, per cui noi siamo sempre pronti a fare ciò che chi ha la competenza, la preparazione e la professionalità per farlo ce lo indica, e noi ci mettiamo ovviamente non solo a disposizione ma a tappeto a fare quello che ci verrà indicato, per cui se ci verrà indicata una modalità differente da quella che era stata indicata ci attrezzeremo come da queste parti peraltro siamo abituati a fare e comunque quindi, stiamo facendo. Quindi non ci sarà una decisione autonoma in questo senso, Bonaccini? Ma no, io penso che si debba intervenire laddove le proposte, le decisioni sono quelle più utili per arginare un fenomeno. Io ieri ad esempio ho costituito una simil zona rossa in una porzione del comune di Medicina nel bolognese, nel Limolese, perché noi lì abbiamo le autorità sanitarie ci hanno indicato una propagazione molto particolare e molto forte di casi, di deceduti e di contagiati, e abbiamo deciso insieme al sindaco, con il sostegno e il supporto del Ministero della Salute e quello dell'Interno, di sostanzialmente da ieri l'altra notte di arginare una zona che è una zona praticamente tipo zona rossa di quelle che erano state istituite in quei comuni che indicavo, per poco più di 10.000 abitanti, proprio per cercare di isolare al massimo. E quindi, come dire, non l'avevamo ancora fatto, l'abbiamo fatto spinti proprio dalle valutazioni, quindi, dal rapporto medico-scientifico. Bonaccini, mi sembra di capire che la collaborazione col governo centrale lei la veda come utilissima per far partire la macchina degli aiuti. Le voglio chiedere come siete messi rispetto ai dispositivi di protezione, in particolare le maschere filtranti. È un tema che dipende moltissimo anche dagli arrivi da altri paesi produttori, benché bisogna dire anche in questo caso che aziende italiane stanno riconvertendo la produzione e a questi bisogna dare il merito di essere stati veloci nel capire la necessità. Come siete messi, Presidente? Allora, guardi, su questo noi anche l'altro giorno in videoconferenza, lei sa che io sono Presidente della Conferenza delle Regioni Italiane, e abbiamo all'unanimità condiviso con tutti i 20 miei amici e colleghi presidenti una serie di misure restrittive, anche molto restrittive, che era stata indicata. Tra l'altro lei diceva no, ci sono cose che si possono provare a proporre anche in autonomia. Due settimane fa, anche in quel caso, io fui il primo Presidente di Regione che decise ad esempio di chiudere nel weekend tutti i bar e i ristoranti di tutta l'Emilia Romagna. Poi dopo è arrivata la decisione del governo per farlo tutti i giorni e per tutti, e l'abbiamo condivisa tutti insieme peraltro. Il tema degli strumenti di protezione individuale, dei dispositivi di protezione individuale, è un tema su cui il governo bisogna che acceleri, perché lì abbiamo avuto diverse giornate dove era davvero difficile, non dico reperirli perché sono sempre arrivati, ma il numero sufficiente. Lei pensi che per la sola regione Emilia Romagna ogni giorno servono, soltanto per la parte di intervento sanitario e sociosanitario, più di 150.000 dispositivi quotidiani, e poi c'è bisogno per tutta la parte di quei lavoratori e lavoratrici che, andando in aziende, quelle diciamo che hanno ancora aperto, io sono uno di quelli che pensa che lì ci si va a lavorare solo se vengono garantite le condizioni di sicurezza, peraltro con il protocollo tra sindacati e associazioni imprenditoriali insieme al governo. Lei si è un po' arrabbiato, Bonaccini, quando ha visto che c'erano paesi europei che non volevano mandarceli. Per fortuna le cose stanno cambiando. No, io penso che quello sia stato una cosa, posso dire, proprio indecente. Peraltro, vede, a forza di dargli un tori agli altri, poi si diventa se stessi e poi si torna a diventarlo un po' più lontano. Cioè, se i paesi europei sta succedendo quello che era prevedibile succedesse e che molti governi tentavano quasi di scongiurare a parole, e quindi c'è bisogno della solidarietà gli uni degli altri. Ora, ho parlato col commissario Arcuri, indicato pochi giorni fa dal governo, e mi diceva appunto della grande impegno a cercare dispositivi di protezione individuale un po' in tutto il mondo, cercando appunto di sbloccare laddove vengono bloccati carichi per l'Italia. Lo dico perché lei ha detto molto bene, cioè ci sono aziende anche qui nel mio territorio che stanno valutando la riconversione o qualcuno che le produce proprio, però siccome il paese ha bisogno di alcuni milioni di dispositivi, c'è bisogno che continuamente arrivino forniture certe che garantiscono il massimo di protezione, in primo luogo per quelli che sono sul fronte e che vanno, credo, ringraziati con un applauso e un abbraccio straordinario da parte di ognuno di noi, cioè quelli che curano e che cercano di evitare il propagarsi del fenomeno, ma poi servono anche a tante altre persone, dalle forze dell'ordine, la polizia locale, coloro che lavorano negli uffici pubblici e in quelle aziende, come abbiamo detto, che tengono aperto. Noi poi abbiamo fatto un piano, se posso dirlo la Tella, cioè abbiamo fatto un piano che porta a triplicare il numero di posti letto in terapia intensiva, che sono decisivi, sui quali poi serve anche tutto il tema dei macchinari, dei ventilatori, per garantire di curare le persone, quelle più critiche, e triplicare anche il posto degli acuti. Cioè noi a regime abbiamo un piano che porterà a oltre 3.000 posti letto per acuti e a oltre 500 per posti terapia intensiva. Sto per firmare l'accordo con la sanità privata, abbiamo già fatto un patto non scritto pochi giorni fa, dove anche loro metteranno a disposizione, esattamente come il pubblico, la possibilità di accogliere persone anche appunto infettate e dare una mano in questo senso. Dopodiché sì, i dispositivi di protezione individuale sono indispensabili, e quindi io mi auguro che il governo su questo garantisca, attraverso la protezione civile, tutto quello che serve nei territori, perché ripeto, stiamo parlando di qualcosa che è assolutamente indispensabile per intervenire e arginare, anche se mi faccio fare un appello, vedo ancora troppi comportamenti irresponsabili in giro. È vero che la gran parte della popolazione ha capito, e rispetto a qualche giorno fa c'è stato proprio uno scatto e un'inversione nella responsabilizzazione delle persone, ma davvero chi non ha necessità di andare al posto di lavoro, chi non ha necessità di andare a rifornirsi di alimentari, chi non ha necessità di condizioni per motivi di salute, stia a casa o rispetti tutte le norme che sono state indicate, perché è l'unico, è il modo migliore, è il modo più importante questo per evitare il diffondersi del contagio. Abbiamo preso misure molto restrittive, se serve se ne prenda anche altre, ma davvero adesso sono i giorni più difficili, perché sono quelli nei quali il picco ancora non è arrivato, e però dovrebbero essere quelli che premettono di arrivare al picco che poi tornerà a scendere, perché altrimenti davvero sarà una tragedia. E quindi invece dobbiamo dare tutti una mano attraverso i nostri comportamenti, mai come oggi i comportamenti individuali sono decisivi insieme a tutto quello che si può fare sul piano sanitario. Grazie a Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, per essere stato con noi. Buon lavoro. Una pausa. Una pausa, ci ritroviamo subito dopo con Laura Castelli, il vice ministro all'economia. Tra poco. Le 8 e 34 minuti, è con noi Laura Castelli, vice ministro dell'economia, perché insomma ieri il governo ha dato il via libera alle prime misure, quelle un po' più sostanziose dal punto di vista economico, uno stanziamento complessivo di 25 miliardi che tiene dentro anche degli investimenti in sanità. Naturalmente è un decreto nel quale c'è di tutto, compreso il salvataggio di Alitalia. Laura Castelli, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Maria, prego. Buongiorno. Buongiorno, Ministro, vorrei chiederle di specificare meglio quello che avete previsto per i lavoratori con figli. Si sa che riceveranno l'estensione del congedo parentale, ma siccome uno dei nostri ascoltatori dice ma in Francia hanno dato la sospensione dal lavoro a uno dei genitori perché possa seguire i figli, è successo anche in Italia, ci spiega nel dettaglio che cosa avete previsto per i genitori con figli, dal voucher babysitter alla sospensione del lavoro? Esatto, allora intanto è una possibilità di scelta. Noi abbiamo pensato che in questo momento fossero da mettere in campo più strumenti da dare possibilità così alle famiglie in relazione alla loro situazione di scegliere. abbiamo scelto di aggiungere dei giorni al congedo parentale perché era la cosa più facile da fare in un momento di questo tipo, con molte difficoltà. È molto meglio agganciarsi su strumenti esistenti che non inventarsene di nuovi, e di fatto il congedo parentale permette a una famiglia di considerare la possibilità di stare a casa per uno dei due genitori. Qualora invece la famiglia decidesse di non usare il congedo parentale, potrà utilizzare il bonus babysitter, che anche questo è uno strumento che si trova nel libretto famiglia dell'INPS, molto facile da consultare sui siti dell'INPS, e sarà di 600 euro appunto, ma una maggiorazione per i dipendenti della sanità, del settore sanità, e arriva arriva a 1000 euro, perché abbiamo sentito insomma molte pressioni dal mondo dei lavoratori della sanità, che come sapete sono in condizioni veramente borderline, e abbiamo pensato fosse giusto aumentare questo bonus. In più c'è una misura che riguarda tutte le persone che invece vanno a lavorare. Questo permetterà alle persone che devono per forza andare a lavorare, perché stanno in uno dei settori, diciamo così, di sussistenza, di avere 100 euro in busta paga. Un segnale che sarà sempre troppo poco, dico io, ma un segnale per dire che lo Stato c'è e non può non guardare con apprezzamento le persone che tutti i giorni continuano, anche con le paure, no? Con la difficoltà di comprendere come si fa in una situazione nuova ad andare a lavorare. Castelli, era necessario arrivare al 16 marzo per rinviare le scadenze previste per il 16 marzo di 4 giorni per alcuni e fino a maggio per molti altri? Cioè, non si poteva fare prima un decreto di due righe? Guardi, ci hanno scritto tantissimi dicendo, alcuni che dicono di fatto abbiamo già pagato nonostante fossimo in una condizione pessima, in una condizione di grande difficoltà, e altri che dicono che insomma un po' è curioso, no, varare un decreto nel giorno della scadenza fiscale. Sicuramente potevamo far più presto. La difficoltà di scrivere un decreto da 120 articoli con 25 miliardi di spesa, però là forse bastavano due righe, per dire rinviamo al 20 marzo e nel frattempo facciamo il decreto, insomma, no? Nei giorni precedenti, esattamente tra il venerdì credo venerdì 13 abbiamo comunicato ufficialmente come Ministro dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate il rimando al 20, cioè abbiamo comunicato che ci sarebbe stato nel decreto il rimando al 20. Mi scuso a nome di tutti se abbiamo cagionato delle difficoltà, ripeto, abbiamo pensato che fosse più organico mettere tutto all'interno del decreto e comunicare alcuni giorni prima, quindi prima del fine settimana, se non sbaglio proprio il 13, venerdì 13, in maniera ufficiale come Agenzia delle Entrate e come Ministro dell'Economia che i pagamenti sarebbero stati rinviati al 20. Ministro Castelli, senta, ma a quelli che giustamente si chiedono, ma bisognava mettere pure altri 600 milioni ad Alitalia in questo provvedimento mostro. Io non lo nascondo, sono tra quelli che in questi anni si è sempre chiesto ma perché continuiamo a mettere soldi dentro l'Italia. Ora mi accorgo che senza l'Italia i nostri connazionali che sono all'estero, quelli che stanno in vacanza alle Maldive, o i tanti giovani che vogliono tornare a casa perché per esempio non si sentono sicuri di quello che sta succedendo in altri paesi europei, ecco, o volano all'Italia o non volano, perché non ci sono altre compagnie che volino nel nostro paese. È stato anche questo a farvi decidere questa nuova iniezione di denaro all'Italia, o sono state altre considerazioni? E se sono state altre considerazioni, ce le spieghi, perché sennò diventa difficile capirlo. Diciamo che la riflessione la condivido in pieno. In un momento di questo tipo una compagnia di bandiera ti permette di fare alcuni ragionamenti in più. E le difficoltà di connazionali che devono tornare, insomma, le avete lette in questi giorni. Io ricevo tantissimi messaggi, le persone si erano spostate, c'è gente che è fuori per l'Erasmus oppure è andata a fare uno stage in un paese estero, insomma L'operazione nasce da questo e da un'altra cosa, cioè dal fatto che in questo momento l'Italia è nel bel mezzo di un'operazione che aspettava di chiudersi, e questo momento di certo non aiuta a chiudere un'operazione di questo tipo, che per tutta l'Italia penso sia molto importante, perché rimettere in piedi una compagnia di bandiera con le giuste regole, le giuste modalità e interesse nazionale. Penso che si debba ragionare su che cosa fare dopo, cioè, credo anche, perché in questi giorni il dibattito sta venendo un po' fuori, no? Si sta cominciando a parlare di asset nazionali, c'è la paura che ci si vengano a prendere le grandi aziende italiane, insomma. Vabbè, Castelli, su Alitalia mi pare che non ci siano rischi, eh. Giusto per chiarire, insomma. Però guardi, rientra nel tema degli asset nazionali da tutelare, rientra nel tema di ricostruire una regia nazionale che possa tenere d'occhio e tenere da conto e utilizzare in maniera positiva gli asset nazionali importanti. Con alcuni settori si fa, penso alle partecipate di Stato molto importanti che abbiamo, che sostengono fortemente l'economia italiana e delle volte anche il settore della produzione, su altri asset invece no. Penso che su temi come i trasporti si possa immaginare di fare di più anche nel settore aereo. Per far rientrare gli italiani, mi permetto di dire che Vice Ministro, si possono utilizzare tante cose, si potevano affittare dei charter, usare i voli militari, insomma non c'era bisogno di fare una nuova iniezione di denaro dentro l'Italia. Non ho detto che abbiamo fatto una norma per far rientrare gli italiani, non ho detto questo. Ho detto che oggi il tema l'Italia comunque non è da lasciar morire, perché è una compagnia importante e c'era un'operazione in corso. Senta, gli autonomi, 600 euro, un'indennità da quel che ho capito mensile, anche qua raccolgo la voce di molti ascoltatori che ci dicono: guardate, questo non serve a niente, avete intenzione di fare di più o serve a poco? Avete intenzione di fare di più sappiamo ci sarà un decreto in aprile, un altro decreto in aprile, avete intenzione di fare di più? Guardi, le racconto che cosa c'è sulle partite IVA, i commercianti, i professionisti e gli autonomi. Allora, oltre a questo indennizzo che, ricordo, abbiamo già erogato nel primo decreto Covid per quelli che stavano nella zona rossa, gli 11 comuni di partenza, se vi ricordate, e questo è un indennizzo che sarà presente fino a quando questo paese dovrà rimanere chiuso in questo modo. Dopodiché abbiamo la sospensione dell'IVA, delle ritenute e dei contributi. Anche qui fatemi dire, la sospensione è necessaria perché dobbiamo capire che cosa succede dopo il 3 aprile. Sono sospensioni che delle volte coprono fino a 3 mesi, per cui non stiamo parlando di un giorno, stiamo parlando di comincio a fare delle sospensioni di tasse per poter programmare il dopo. Quando capiremo che cosa succede dopo il 3 aprile, sapremo anche come continuare questo processo di tutela nei confronti delle partite IVA. In più c'è un credito d'imposta al 60% per chi ha un negozio, una bottega, tema dell'affitto molto importante. Ovviamente questo 60% di credito d'imposta si aggiunge al 20% di deduzione che oggi già un negoziante ha. C'è una grossa moratoria sui mutui, i fidi, i leasing e le procedure di credito. Questo è molto importante. Io invito le persone che stanno in questo momento in difficoltà a sentire la propria banca, a farsi spiegare quali sono gli strumenti. C'è l'accesso al fondo di garanzia delle PMI senza vincoli, e questo è un'iniezione di liquidità, e anche qui chiamate le vostre banche, informatevi online per capire come si accede, è molto importante. Queste sono liquidità immediate. C'è la sospensione dei mutui per la prima casa se sei autonomo, che si aggiunge a quella, insomma, dell'attività d'impresa, se ce l'hai. E poi c'è un credito d'imposta per la sanificazione, quindi per quelle attività che fanno la sanificazione. Aggiungo, prima mi sono dimenticata, che il congedo parentale vale anche per gli autonomi, per la prima volta. Tutti questi soldi, Castelli, tutti questi soldi prima o poi li dovrete trovare. Arriveranno dalla Commissione Europea, perché abbiamo già un super debito E ovviamente c'è chi si preoccupa che possa diventare un super super debito. È vero che tutti i paesi stanno decidendo misure massicce per sostenere le economie messe in difficoltà dal Covid-19. L'ultimo a farlo è stata pure la Nuova Zelanda. Però noi siamo più fragili di altri. E dunque, come pensate di far fronte all'emergenza economica? Dove prendete i soldi? Allora, mi faccia dire che la parte del decreto che si occupa di credito alle imprese libera 360 miliardi di liquidità per le imprese italiane, quindi non sentiamoci meno dei tedeschi, anzi le iniezioni di liquidità che noi facciamo sono molto più dedicate ai piccoli e alle medie aziende. Questo decreto è finanziato in deficit e quindi ci saranno emissioni di titoli, per cui questo è debito vero. Ma siamo certi, e insomma io anche in questi giorni lo sto dicendo, si sta aspettando di verificare, insomma, che l'Europa questi denari ce li conceda. D'altronde il 13 di marzo la Commissione europea ha scritto nero su bianco tutti i punti economici sui quali intende aprire a un finanziamento, quindi noi ci auguriamo che in questi giorni, con i dibattiti che ci sono a Bruxelles, si possano considerare delle risorse cospicue, anche perché andremo avanti, quindi non è finita qua, ci saranno altri decreti sui quali si dovrà ragionare sugli indennizzi, eccetera. Io quello che posso dire che oggi gli altri paesi ci stanno prendendo a modello su alcune cose che stiamo facendo con molta fatica, molto senso di responsabilità, anche qualche dubbio delle volte. Economicamente è impattante, non c'è dubbio, ed è solo l'inizio. 25 miliardi sono serviti per mettere la diga, come diceva ieri Conte, ed è una diga importante, perché è un modello, di fatto è un modello di welfare, di tutela di tutti gli italiani. Un ascoltatore, va, sentiamolo. Peter Bescapè, vai. Senta, potrebbe chiedere alla ministra Castelli come si fanno a reperire in questo momento di chiusura totale le babysitter? Grazie, visto che hanno stanziato il bonus. Grazie mille, buona giornata. Oh, non è male, uno dei tanti elementi, così come quelli che dicono ma come faccio a chiedere il congedo se non posso arrivare al CAF, insomma, diciamo che poi questi sono problemi pratici naturalmente, non è che chiediamo alla Vice Ministra dell'Economia di risolverli, però insomma no, ci sono tutti questi elementi che ci sono. Beh, sono tutte richieste che si possono fare con modi alternativi. Sulle babysitter c'era chi aveva già persone di riferimento. Guardi, io penso che la difficoltà ha gusti d'ingegno, e se hai bisogno di trovare una persona che guardi tuo figlio mentre tu devi andare a lavorare, forse sarà difficile, ma io credo che si possa trovare nella situazione in cui siamo. Non credo sia inutile, lo vedremo su quanti soldi verranno spesi. Se poi invece uno ha il dubbio, chiede il congedo parentale e rimane a casa. Ecco, per questo, anche per questo abbiamo scelto diversi strumenti, perché non è detto che tutti possano dare lo stesso. Grazie Laura Castelli, Vice Ministro dell'Economia, per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro, buona e torneremo giornata. E lo dico agli ascoltatori, dato che le domande sono tante, il decreto è stato appena approvato, torneremo su questo tema, non vi preoccupate, tutta torneremo a trattarlo. Ma sì, boh, adesso giorni. Non esageriamo, però insomma sì, ne parliamo un po' tutti i giorni, ne parleremo. Intanto salutiamo Jörg Eberhardt, che è amministratore delegato di R Dolomiti, per parlare di un aspetto particolare di tutto questo, che sono quello che accennavamo già prima, Maria, no? Le forniture da parte di paesi stranieri o l'arrivo da parte di paesi europei del materiale sanitario, le mascherine e via dicendo, no? Maria. Buongiorno dottor Eberhardt. Allora, buongiorno, ci spiega che cosa ha deciso di fare con la sua azienda R Dolomiti per far arrivare in Italia e quindi superare anche tutte le questioni burocratiche che hanno impedito in questi giorni l'arrivo di materiale medicale dalla Germania in Italia, e anche certe problematiche legate ai confini, perché ricordiamocelo che l'Austria ha creato non poche difficoltà per far arrivare merci e far uscire merci dai nostri confini. Quindi che cosa avete intenzione di fare con Air Dolomiti? Allora spiego brevemente cosa abbiamo in mente. Vorremmo trasportare più di 1500 tute mediche da Monaco di Baviera a Milano sul nostro volo di oggi alle 11:20. Questo è venuto su iniziativa dell'ambasciata italiana in Germania, che ha chiesto un aiuto da parte delle aziende. Era più o meno un caso che nelle migliaia di email ho trovato queste email, sì. Poi mi sono attivato e chiesto se possiamo dare una mano, e per fortuna era possibile. E quindi lo farete solo in questa occasione? Ci sono altre richieste che sono arrivate dall'ambasciata italiana o sono solamente queste 1500 tutte mediche? Per il momento è l'unico progetto, siamo comunque disponibili a trasportare di più, dipende comunque dal piano dei voli che cambia al momento continuamente, quindi la pianificazione è abbastanza difficile. Abbiamo fatto in questo caso una cosa ad hoc, ma vorrei anche offrire questa possibilità nei prossimi giorni, forse ad altre regioni o interessati. Senta, Eberhard, già che abbiamo l'amministratore delegato di una compagnia aerea, parlare un attimo con lei anche di quanto è dura in questo periodo per tutto il vostro settore mi pare opportuno. Ci dà un quadro di quello, per esempio, che è successo ad una compagnia come la vostra e anche i segnali che sta ricevendo dai suoi colleghi con i quali immagino che si senta internazionali? Allora, siamo colpiti fortemente come una bomba, cerchiamo adesso nelle priorità di tutelare i nostri passeggeri, dipendenti e poi anche di stabilizzare le aziende. Penso che valga per tutte le aziende del settore e fa parte di questo business che prima si vende biglietti, poi si incassa e con questi soldi si paga i fornitori, l'affitto personale e tuttavia. Voi sarete chiamati, le vostre aziende saranno chiamate a restituire il denaro ai viaggiatori, immagino. Allora c'è qualche agevolazione su quello, stiamo ancora sistemando tutto, ma offriamo ai nostri passeggeri una massima flessibilità di fare rebooking, riprotezioni, ma chi ha un biglietto rimborsabile certamente ha diritto al rimborso. Senta, quanto tempo ci è voluto per far capire anche le difficoltà burocratiche che non sono solo in Italia, ma anche negli altri paesi? Quanto tempo è passato, no? Tra quando lei si è accorto di questa mail che le aveva mandato l'ambasciata italiana a Berlino, e per fortuna che se ne è accorto, e per fortuna che ha deciso di dare seguito alla mail, e la possibilità di caricare queste tute per i sanitari che verranno caricate oggi a Monaco di Baviera e portate a Milano. Quanti giorni sono passati e quali difficoltà lei ha incontrato per rendere pratica, lei e l'ambasciata italiana a Berlino avete incontrato per rendere poi fattiva la cosa? Allora, primo contatto era domenica e poi la difficoltà, allora due giorni fa, la difficoltà era che la domenica anche questa spedizione a Francoforte non era reperibile, quindi abbiamo cominciato poi ieri col trasporto delle tute da Francoforte a Monaco. Per questo trasporto ci ha dato una mano anche la Generali in Germania, assicurazioni, quindi anche grazie a loro siamo riusciti poi ad avere le tute a Monaco. Quindi sono stati due giorni e devo dire che le formalità non ce n'erano tante, perché il trasporto aereo ancora funziona nei limiti, ma funziona. Mm-hmm. E abbiamo anche soffritto dell'infrastruttura che abbiamo come gruppo Lufthansa Cargo, che ci ha sostenuto su tutta questa operazione. Allora, andiamo a sentire qualche voce di ascoltatore, va, nel salutare Jörg Eberhard, amministratore delegato di Air Dolomiti. Grazie Eberhard, buona giornata. Tanto. Buon lavoro. Qualche voce di ascoltatore, via. Buongiorno a tutti, oggi è l'anniversario dell'Unità d'Italia, ricordiamocelo. Forza noi. Ma non vi sembra assurdo che ci hanno rinviato i pagamenti di 2 mesi e invece i termini di accertamento fiscale di 2 anni? E che in questa manovra hanno regalato come al solito 500 milioni ad Alitalia? Buongiorno, i lavoratori autonomi, le partite IVA, adesso avranno un bonus di 600 euro, ma quelli iscritti all'INPS, quelli lì iscritti agli ordini, cioè i professionisti, quelli veri, quelli con laurea iscritti all'ordine che pagano previdenze e pagano gli ordini, non hanno niente perché lo Stato agli ordini non impone niente e noi siamo in balia. Allora, ci informeremo un po' meglio su questa questione. Sì, perché, tra l'altro ci sono, insomma, anche dei giornalisti che ci scrivono, Simone, e ci dicono, beh, ma questo provvedimento vale anche per chi è iscritto a INPS G2? Ecco, cercheremo di dare una risposta. Cercheremo di dare risposte, di dare chiarimenti che su questo fronte. Invece mi sento di condividere l'ascoltatore sul fatto che qua nel decreto è stata inserita anche la questione della proroga dell'accertamento per 2 anni. Quindi se da una parte ti dicono vabbè ti rinvio le tasse per 2 mesi e però ti prorogo l'accertamento per altri 2 anni rispetto a quelli consentiti, e poi perdonami Maria, ma questa questione di Alitalia a te piacerà tanto che riporta gli italiani qua, ma a me, no, io non a è me, che mi piace, a me io manda son pratica, i pazzi, Simone, questa storia dei soldi, no, Simone, no, la, guarda, la pratica lì affitti, guarda lì con i soldi che metti, con i soldi che metti in Alitalia li riporti a casa con un volo privato ciascuno, guarda veramente con i soldi che abbiamo buttato dentro all'Italia. Ma io non credo che l'abbiano fatto, la Castelli ce l'ha appena detto, Simone, non l'hanno fatto per riportare gli italiani in Italia, l'hanno fatto perché in questo momento non c'era nessuno che se la comprasse, questo è evidente, no? Però mi viene da osservare che se non ci fosse stata Alitalia, prima che affitti un aereo e poi magari ti fanno anche gli articoli contro perché hai speso trot per affittare un aereo privato, teniamo conto della praticità, ci sono migliaia e migliaia di italiani che non possono rientrare perché non ci sono voli, perché dalla Germania domenica sera non c'era più un volo per rientrare in Europa, cioè la situazione, ma il modo si trova, lo attrezzi, il modo secondo me lo attrezzi, comunque vabbè, tra l'altro tanto mi dicono non c'era nessuno che se la comprava e quindi c'era poco da quindi tanto vale buttarci dentro altri 600 milioni, vabbè, e che devi fare? A domani Maria, 8:20, noi ci risentiamo alle 6:30, ciao.